membri del gruppo Linux si riuniscono. Questa sera, eccoci qua. Opencast Alpha, siamo tornati. Siamo qui tutti stasera. Chi è che manca? Puntata 24. Io manco. Io, Coso, Mimmo lo pesce. E poi chi è che c'è? Siamo qui tutti riuniti questa sera, fratelli, ci prendiamo per mano e diciamo insieme Opencast Alpha, grazie per essere tornato, salvaci tu da quello che sta succedendo nel mondo Gentoo. C'era anche la rima. Allora, cosa è successo nel mondo Gentoo? Cosa stai dicendo? Non lo so, Gentoo? Dimmelo tu. No, non lo so. Tanto allora, Gentoo c'è sempre un problema. Non è che c'è tanto difficile da beccare qualcosa. Allora, vabbè, installatevi Ubuntu, allora vivete felici. Noi non vogliamo più gli Ubuntu zombie. Io sono in un momento polemico. Catartico. Perché Fabrice sta staccando cavi a caso. No, è lui. No, non so che cavi a caso. È il mio lavoro staccare cavi a caso. Ci sono ancora? Ah, ok. Passo e chiudo. No, è così. È il mio lavoro staccare. No. Aspetta, galleria. Non c'è sta facendo un perché avete perché voi non lo sapete, ma noi siamo in diretta da un furgone. Un furgone? Perché siamo sempre in diretta da un furgone? Non lo so. Sempre. Verde marrone. Per non farci trovare. Poi c'è gente che potrebbe iniziare a pensare male. Noi scappiamo. E ringraziamo lo sponsor di questa sera, Snack Friends Wi-Fi, con un sacco di sale che in edizione limitata con i brez e la forma di pallone ci permette veramente di aumentare la nostra portata del nostro Wi-Fi, che abbiamo già la tecnologia Z. La N che cos'è? Spacca di brutto. E andiamo con le news della serata, passiamo la parola a Fabrix che sa un sacco di cose. Vai Fabri! No, il mio lavoro è staccare cavi a caso. No, io sono qua solo per staccare i cavi. Io veramente sono qui perché devo staccare solo cavi. Perché mi piace il cavo. Allora, Ubuntu Zombie, mi dicevi, che cosa Ubuntu sono questi Ubuntu Zombie? Ma ci siamo letti un articolino oggi, abbastanza carino, parlava del fatto che Ubuntu... Stanno decollando. Non ha fatto... Allora, smettila, stanno decollando. Facendo il bucato. Ciao lavatrice, grande. Del furgone, ok? Ma è bucato come quello dell'altra volta che è uscito fuori la lavatrice e ha detto scusate, ci avete la cartina. Scus, ma... Vabbè, comunque, bucato. Ubuntu Zombie. Veramente brutta. Bella, eh? Ubuntu Zombie, prego. Vuol dire certo che Ubuntu... Che fare il bucato sul furgone. Non è facile, io ci vivo nel furgone. Comunque, Ubuntu Zombie, perché Ubuntu non avrebbe aiutato il mondo di Linux. Perché? Per il semplice fatto che gli utenti che non compilano, che non sanno cos'è... Gli utonti. Che non sanno cos'è un xconf o che cosa... Sono degli utenti che, vabbè, stanno lì perché è figo Ubuntu, sì. Ma non perché Linux è bello. Ma molti installano Ubuntu per dire, ho installato Ubuntu sul computer. Ubuntu, notare, non Ubuntu. Sì, Ubuntu. Cioè, adesso te l'ho Ubuntu e... C'ho Linux Sì. Dopo passo. Poi passo te l'ho Ubuntu, sei bravo, certo. E soprattutto molti installano Ubuntu per fare quella cosa. Non prendo i virus. Cioè, comunque, capito? Pensavo per Unity. C'è dietro una filosofia. Unity soprattutto. C'è dietro tutta una cosa, cioè, capito? E allora c'era l'intenzione di proporre ai nuovi utenti Arc e Gentoo. Sì, sicuramente Gentoo, ma già seleziona che siamo, l'ingresso. Perché non una BSD o piuttosto che perché una Slack? C'è anche il livello difficile, Linux from scratch. Ah, quello proprio, quella è la versione cattiva. Cattivissima. Vabbè, però considera che... Voglio salutare tutte le persone che hanno capito quest'ultima battuta. Mettetela. Ciao. Se poi... Allora... Scusi, no. Mi sta guardando male. Non era riferita la tua battuta. Continua a giocare con quel cacchio di tablet da 60 euro. Prego. Non ho capito. Avanti. Possiamo andare avanti? Sì, scusi. Oh, e che cacchio. Comunque, allora, Gentoo e Arc. Perché? Perché quando vi si creano problemi, avete le rogne con il sistema che non parte, oppure, non lo so, non riuscite più a installare programmi o che, con Ubuntu la prima cosa che fai è andare a vedere su un forum per trovare la soluzione. La soluzione. Invece no. Con Gentoo e con Arc no. Inizi a litigare, inizi a urlare, a implicare. Ma io ho installato Arc. Di solito quando ho un problema vado su un forum. Smettila. Esattamente. Allora, o sul wiki. Scusa, vai su un forum o uno su... a caso. Ah, un forum. Uno a caso. Tipo potrebbe essere il forum dell'uncinetto. Ah. Cotto e mangiato il forum oggi. PS Vita. Sì, tipo cioè non riesco a ricompilare quel modulo e allora mi faccio una frittata di cipolle. Oppure una familiare che perone tipo ghiacciata. Di birra potrei bere stasera? Familiare perone ghiacciata. L'unico problema è che così facendo molti utenti rischiano di finire nella... non usare, cioè praticamente lo installano e poi dicono solo perché è carino. Sì, vabbè, ma è complesso e se ne vanno. Sì. Solo perché stai parlando di Ubuntu? No, se gli fosse propinato un Gentoo o un Arc. Ecco, così. Ma è giusto sul nascere. Ma bisogna un po' scremare, però, dai. Quel ecco Linux qua. Usato da 3 persone sul pianeta a sto punto. Sì, c'è del classismo, vedo, eh. L'importante è che lo uso io e sono perché contento. Perché sotto sotto la maggior parte del lug di questo pianeta lo vuole diffondere, ma anche, ma anche no. Ma scusa Linux, posso usare ma Ubuntu? Cos'era? No, fa niente, devo scherzavo. Dimostrarti che è superiore, che è migliore, però anche se non lo so ma usare. Ma cos'era il mondo prima di Ubuntu? Ma guarda, cioè quando tu facevi l'installazione c'era contenimento demografico, con Ubuntu è diventato un problema. Quando siamo tu diventati facevi... 7 miliardi in un attimo. Quando tu facevi l'installazione non avevi le cose figose da guardare intanto che facevi l'installazione? Ma come no, io installavo Mandrake ai tempi, c'erano allora, le cose. Allora, anche su Red Hat c'era Le tette? Tristezza, invece è una bella installazione. Stasera quelle... si è bene, Sì. Comunque... Minimale Debian. Ma allora, la prima installazione di Linux che ho fatto era Debian e tutto quello che mi ha fatto vedere è stato il D-Select. Sì, quella infatti. Roba che anche adesso, dopo anni, faccio fatica a usare. È stato molto bello, sì. Bei momenti. La prima è stata la progeny Debian, ormai morta, poverina. Era bella. Allora, visto che stiamo parlando della prima volta, la mia prima volta è stata con una Core Linux. appena l'ho installata mi ha fottuto tutti i settori iniziali dell'hard disk. E dopo, subito dopo il BIOS ho visto degli 0 e degli 1. E adesso capite molte cose sul mio conto. Era la distribuzione tutta colorata. Core Linux, davvero, non la fanno più. Chissà, c'è un perché. Cosa avrà voluto dire? Non vi fidate delle dei CD nelle riviste dei giornali? Esistono, no, però l'avevo provato. Esistono ancora i CD? Esistono. Ma fanno le, CD. Adesso fanno le riviste Ubuntu. Nei CD. Scusate, ma esistono ancora i CD? Ma in che anno siamo? Che anno è? 97. 13 fratto 3. 13 fratto 3. Riporta siamo 2. Nel 2K12. 2K12? Cavolo. C'è stato un problema. Ha funzionato! No, c'è stato un problema. Devo tornare indietro. Scusate, vado. E quella era la simulazione. Me la puoi mettere tu il suono? Sì, dopo, anche lo metto io dopo in post. Grazie. Vabbè. Grande Giove. Ah, eccovi. Via. Comunque, dalle varie news che hai raccolto tu. No, parliamo di un'altra cosa dello zombie. Dell'Ubuntu. Ah, io stavo dicendo. Stai finendo ancora il discorso. Che alla fine l'installazione. Arriva Polly. Ti deve far capire che hai davanti una serie di problemi. E quella di Ubuntu, sì. No. Perché... La famosa installazione a specchio, no? Ti fa vedere che hai davanti una serie di problemi. Con la webcam attivata e tu vedi mentre installi qual è il problema principale del tuo PC. Non va bene perché è sempre avanti, password avanti. Comunque io direi che il problema non sussiste, visto che a quanto pare Linux sul desktop ormai è morto. Sì, non lo usa più nessuno. Non lo usa più nessuno perché hanno fatto questa ricerca e dicono che vabbè, la stragrande maggioranza usa Ciccio Soft, poi c'è Mela Mozzicamala. E poi sui device effettivamente sta iniziando a spadroneggiare l'Android, dammelo. Spadroneggia. È quello strano animale. Sì. Animale. Ma il problema grosso è che oramai siamo finiti sui device. Ah. Allora, finché non finiamo sul gabinetto, andiamo avanti bene. Ma forse c'era già, eh? Forse c'è. Sì. Okay. Sì, perché ragazzi, la visione futuristica è questa, sarà l'internet delle cose, cioè sarà tutto connesso, il vostro forno, la vostra caffettiera, il vostro frigorifero, saranno tutti oggetti connessi a internet. Tu pensa, ce l'hai collegato a Twitter, ma il sono problema è tre che... tweet al giorno col peso specifico. Ma soprattutto ti verranno stampate le notizie sul pane tostato la mattina. Quello che mi preoccupa... Roba, eh? Scusa, aspetta, questa tagliala che ce la teniamo buona. Quello che mi preoccupa comunque è il fatto che io non ho l'internet, per cui dove cavolo mi connetto? E alla rete. Di chi? Vai in bagno, Mimo wifi, usi il modem, ti colleghi alla rete, fai un bel download. Apri il tuo armadio, prendi un paio di calze e hai la rete. E su questo un bel brano era peggio giusti, di quella di questo qua di fianco. Sì, è vero, un bel brano, sì, veramente grazie. Tremendo. Io direi che questo è un buon momento per sto cercando di peggiorare, buonissimo. Peggio di così non potevo provare. Senti, ma che dimmi. Bello quel clitoide rosso che c'è, guarda, su quel IBM. Guarda, è odioso quel coso. Lascia stare il mio computer. Ma quello lo rimpiangono in tanti. A proposito di computer, spezziamo una lancia in favore dei... Si parla di ultrabook e ultraportatili. Dopo la musichetta, ovviamente. Ah, dopo la musichetta. No, ma anche prima. Miao. Dopo. No, prima. Prima. Nel mentre, tu parla. Usciranno a breve dei portatili. Sì, la Dell ha già lanciato un portatilox di quelli super carboniosi, sottili. Stile quello della concorrenza, quello Tamarrata, quello sottile, che dura, avete capito? Nuvenia Pocket, Nuvenia Pocket Ultra con le ali. E adesso anche l'IBM ha lanciato il suo, anzi la Lenovo, pardon, ha lanciato il suo portatilino. Problemi super di sottile. E mi parlano sopra, io... No, è perché è così. Qua la gente è cattiva. Usa il portatile, anzi... Aria. Insomma, se volete, gli ultra portatile... costeranno una barcata di soldi, quindi you can't afford it. Ma guarda, veramente dipende dal materiale, perché ci sono degli ultrabook che hanno cacciato fuori in lega plastica, a quanto pare li faranno intorno ai 600 euro. Un secondo, a quanto pare o sono già usciti? Sì, no, sono usciti, non so con chi sono usciti. Ma quanto sono Samsung, ultra? Samsung, roba coreana. Perché devono essere ultra, per essere ultrabook. Ultra devono essere, hanno delle dimensioni. Ultra tirulelo. Oggi splende il sole. Ah. Vabbè, stiamo degenerando, metti la musica, grazie, ciao. Yeah. La sezione adulti è aggiornatissima dei pornofunic. Perché allora non sono una sezione adulti, penso a questo punto. Che, cioè, che cacchio di ingresso erano i pornofonic con il brano. Ma cosa hai fatto durante la pausa musicale? Di cosa in an extra life. Vabbè, se non l'avete capito, scriveteci come fate. No, di tanto lo metteremo. Abbiamo tonnellate di lettere. Vi chiederemo gentilmente di mandarci mail non cartacee, perché veramente non sappiamo più dove metterle. Sappiamo più dove mettere le carte. Le stiamo girando tutte al Papa, perché lui è abituato. Potete continuare a mandare soldi, però, perché soldi, va, va benissimo. Soldi, va benissimo. Sì, continuate copiosi come adesso. Sì, sì, basta con la dracma, però. E tranquilli, che il salto quantico. Tutto a posto. La lavatrice ha finito, ha fatto beep. Ha fatto il salto quantico, vuoi dire? Sì. La lavatrice del CERN. Ma se noi mettessimo in cloud comunque tutte le lavatrici, che cosa succederebbe? E faremo un bucato condiviso. La paura. No, secondo me vanno un buco così. Nero. Fanno. No, aumenteresti il momento rotatorio. O acceleri o rallenti la Terra, secondo me. Esatto. Quindi l'esplosione dell'universo. Quindi le lavatrici potrebbero accelerare il moto terrestre, dite. Sì. O decelerarlo. Sì. Moto a luogo. Ah. Luogo. Luogo. Luogo. A chi? Luogo. A luogo. Luogo. Comunque, nel caso, tornando al discorso di prima, di che non, cosa? Se vi interessa adulti. Veramente, no, quello lo facciamo più alla fine del podcast. Ok. Quando è più tardi. Ah. Se vi interessa veramente sapere i brani che abbiamo trasmesso fino adesso, metteremo tutti i link, i titoli, ovviamente. Caricatevi su l'applicazione, l'applicazione, la fate partire, la lavatrice. Vabbè, la fate partire e registra. Vi dice che brano state ascoltando, punto. Non è più facile andare sul sito www.gl-como.it? Beh, ridimmelo che me lo segno. www.gl-como.it. Ma il trattino basso o alto? Trattino. Meno, per intendere. Meno. www.gl-como.it. Allora, se AGL togli como... .it. È facile. E a breve... Ci sarà anche una nuova sezione... Sezione Porncast. No, quella era fai te. Mi piaceva la aprirà sezione il podcast, forum. Sai. Registratevi numerosi. Apriremo un forum così. Sì. Adesso di interesse generico. Possiamo gestire fino a 10 utenti, Fino contemporaneamente. No. Contemporaneamente. Quindi mi raccomando, non vi iscrivete che tutti la banda assieme. Costa. Scusa, ma quella lì è della coppa che vedo. Non venite a scrivervi tutti contemporaneamente Clara. Perché la Clara, non posso. I server crashano. Sì, si intasano le linee. C'è la salama, no, vabbè. Iscrivetevi lentamente perché le linee il si il comitato intasano. Aggiunge un problema peacemaker, ragazzi. Allora probabilmente non si sente adesso qua dai microfoni, ma nell'altra stanza c'è la lavatrice che suona. Allora, che ha finito. Sta richiedendo attenzione in una maniera spasmodica. Se vuoi andare un attimo a verificare. Allora, ragazzi, un attimo che vado, Vai, vai. Eccomi. Cos'era questo rullo di tamburi finto? Sì, è andato a rullare. Non era finto. È andato a rullare. Ho dato due colpi alla lavatrice. Certo. Ah, va bene. Comunque, tornando a bomba. Altro che Wii. A proposito di Wii. A proposito Wii! Di device. Device. Per cui Linux su device. Questa famosa distribuzione Linux sull'N900. Ah, questa famosa distribuzione, oltre alle varie distribuzioni alternative che abbiamo già segnalato, come il progetto MER, ricordiamo a tutti. Oh, progetto MER. MER. Oh, MER. Questa è ancora la lavatrice. Oh, MER. Per favore, vai a spegnere sta lavatrice, per favore. Ora. E che cos'è? Progetto MER. Oh, MER. Il MER Project è nato quando c'era stato quel casino tra... Dopo Memo, per intenderci. Ah. Era arrivato Migo. Ah, successore di Memo e Migo, bla bla bla, tante care cose. Migo è morto. Migo è morto, ha detto, poi facciamo Tizen. O Titan. Sì. Ma quello che è. E Tizen è rimasto lì fermo dicendo, ci siamo, faremo qualcosa prima o poi, tante care cose. Sì. Nel frattempo, un progetto che era nato ai tempi della vecchia versione di Memo, sì, quando che c'era si chiamava ancora, MER, quando c'era ancora l'Olivetti, no, quando, sì, più o meno quando sì. C'era l'Olivetti, che si chiamava appunto MER, sì. Ha detto, vabbè, perché non torniamo in auge? Ma MER, figlio di Knorr? Sì, esattamente lui. Della dinastia? Di Ashtang. Ashtang. Ashtang. Sembra un po' la trama di Beautiful, no? Sì, ma anche di Avengers, sai? La morale che in tutte queste cose è il MER Project, in una delle sue incarnazioni varie, che è Nemo Mobile, molto bello. Oh, funziona Knorr. Un po' dappertutto, compresa la Panda Board PC. Potete anche provarlo in PC. Virtual Machine. Funziona sull'N9, l'N900 e l'N950. Insomma, potete fare quello che volete. Beh, veramente. Ed è un gran bel sistema. Funziona molto bene. E tu l'hai testato sul tuo? L'ho testato e funziona gran bene. Bene, bene. E bene. Tutto questo, c'è anche un'altra distribuzione simpaticissima che è SGH Linux. Ma è quella lì con l'icona verde? È quella con l'icona verde. Oh. Esattamente quella. Stasera c'è stata una discussione su qual è quella distribuzione con l'icona verde. Con l'icona verde. Con tre lettere che inizia per SGH. Come R, figlio di Kmor. Stai cercando un bicchiere per me? Lascia stare. Ah, l'aceto balsamico. Ah, ci diamo di cuore, molto bene. E funziona molto bene. Niente. Anniversario. Pampero. Provatela. No, ma io non lo voglio. Attenzione, è solo per utenti esperti. Perché? Non ha l'installazione avanti. Non ha avanti, salta e... Salta, gira. Ma non capisco se è un ballo di gruppo o è una sorta di... Ma avete parlato piuttosto del mitico Wolfenstein 3D che è disponibile come web, mi ricordo, web application? Ne avete parlato nello scorso Opencast che io ho ascoltato. No, non avete parlato. In mailing list. Ah, è vero. Nella mailing list che seguono tutti. Chi, anche se avete 15 anni, non ha mai giocato a Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D. Io cerco di perdere sensi. Non Return to Castle Wolfenstein. Return to Castle Wolfenstein, l'ho giocato anche quello. Motore di Quake 3, veramente ben fatto, bel giochino. Beh, insomma, era piatto, ma anche no, veramente. Vabbè, adesso niente. Per il 20esimo anniversario. Ma c'è il 3D? No, 20esimo. Avevano fatto una versione patchata che praticamente utilizzava un motore diverso tempo fa, ma si parla degli anni 90, quindi ho poca memoria. Però sì, andavano di moda ogni tanto fare queste specie di versioni, anche di Doom l'avevano fatta il remake con un 3D. Con un 3D vero, ecco, sì, una sorta di remake, Descent, quella roba lì. Descent. Non ce l'ha fatto, lo davano in bundle con la 3DFX. Se lo giocavi in software faceva schifo allucinante, se lo giocavi con la 3DFX, bab. Salutiamo la 3DFX, fatto... tra l'altro. Salutiamola, e hanno fatto la versione ancora di Doom, aspettando era quella Voodoo fatta 6. Ciao, 3D. Veramente in ray tracing. Ah. Quella che funzionava bellissimo, era bellissima. Sì, quella che completamente in ray tracing. Al supermercato te la facevano provare col casco. In realtà era un virtuale, aumentata. Sì, aumentata? C'era ancora già una sorta di realtà aumentata. Ho sentito... A proposito di realtà aumentata, no! Guarda una segnalazione. Oh no, non di nuovo. Pioneer sta lavorando a un sistema da integrare in alcune auto per adesso giapponesi, dove vengono proiettate delle informazioni direttamente sul parabrezza dell'auto. Una cosa che avevamo già visionato con gli altri delle GL Como. Sì, è veramente old, perché ormai ci avrà una decina di giorni. Ma la cosa, più succulenta, e meno male che ho detto succulenta perché mi veniva un altro termine, Snack Friends. La cosa veramente succulenta di questo sistema è che costa $6,000. Eh? $6,000 per adesso. Mi sembra una cagata pazzesca, contando quello che costa un pico proiettore, quello che costa un cacchio di uno smartphone, un con computerino. Il GPS. Vabbè, sì, vabbè. Ma la parte bella è che devi vederlo di giorno. Quindi le macchine, sul vetro. Ecco, le macchine non vanno più solo a GPL, ma vanno anche a GPS. Ma no, è uno schermo davanti e via. È uno schermo. Chiaro. Chi se ne... No, scuro. Se no non vedi. Invece Volkswagen mi ha detto che la prossima macchina la fanno facile. Elettrica, solo elettrica. Volkswagen, sì. Vabbè, come la Peugeot. Sì, solo elettrica. No, non micro, solo elettrica. È finito? No. Abbiamo capito. Sì. Va bene. Ok. Vuoi dire qualcos'altro? No, puoi tagliare tutto. Ah, ok. Quindi fate finta di non aver sentito gli ultimi... Ma le news di questa sera, minuti. Non me le ricordo più quali erano. Allora, le ho mandate. Ce ne sono diverse, ho detto che insomma, le abbiamo anche guardate. Finalmente, cosa? Tutti erano preoccupati per Skype, che ha acquistato da Microsoft. Io non dormivo la notte. Uno diceva, oh mio Dio, adesso la mia versione per Linux, che fine farà, oh mio Dio. Vabbè, hanno detto che la versione per Linux non morirà. Io volevo solo dire una cosa. Hanno detto l'anno scorso che la versione per Linux non morirà. Adesso, dopo un anno, hanno detto no, ma la stiamo sviluppando, non possiamo ancora dirvi esattamente quando uscirà, ma la stiamo sviluppando. Allora, ci stanno lavorando. Non è che stanno facendo come noi sull'Opencast, che facciamo finta di lavorare. Probabilmente ce n'è uno, il più sfigato l'ha preso nel gruppo. Ma il problema è che non gli è andato il computer. È quello, perché ancora ci mette un po'. Sta facendo su carta. No. Io sono estremamente fiducioso. La versione per Windows ha fatto più o meno 18 aggiornamenti. Quando e soprattutto sono riusciti a tirare fuori nel quella frattempo per Linux, la versione per Windows. Quella per Skype, quella per Linux c'è Skype Beta 2, mi pare. Si è fatto una versione così. Però vabbè, vi ricordiamo che ci sono delle alternative. Io lo sto ancora cercando. Sì, ci sono le alternative. Sì, sì. Aprire la finestra e urlare. Sì, c'è una. Ma mia zia sta in Australia, faccio un po' fatica. Urla forte. Ma non posso installarmi, che ne so. Che cosa? Cosa vorresti installare? No, non lo so. Una volta c'erano quelli che si appoggiavano su Skype, adesso li hanno tolti tutti. Eh sì, adesso c'è. Cioè, io tipo avevo un vecchio Nokia 60, poi non posso installargli un cavolo. E invece parlando di applicazioni per cavolo. È con grande piacere di tutti i possessori di N950, N9 e presto N900. Siete in due. No, no, l'N9 c'è un'unità. Ma non che esiste ancora Nokia? No. Adesso si chiama Nokia. In pratica, una grande applicazione che è quella che tutti useranno su tutti i telefoni di WhatsApp. Ah, WhatsApp. Quella che oramai si sta diventando tantissimo perché è una specie di... È un programma basato su sul protocollo XMPP. Però funziona col vostro numero di cellulare, quindi voi tra tutti i vostri contatti in rubrica potete vedere chi usa WhatsApp, chi non lo usa e mandare messaggi usando solo la connessione a internet. Federa, che non è una roba di Letti. Sì. No. Lenzuolo. Okay. La morale è che hanno fatto un porting di WhatsApp per i cellulari Nokia che montano Migo. E tutto questo e si chiamerà allora perché WhatsApp non è open. WhatsApp non è open. Questa versione qui è venuta fuori analizzando i log, sniffando i pacchetti e facendo il reverse dell'applicazione di Android. Ma è open. Questa versione qua, teorica. Non so se hanno già rilasciato il codice, in teoria no. Sì, probabile. Cioè, comunque sarà su virgola e funzionerà tutto. Taglia Sergio, taglia questa. Tante care cose. Taglia questa che non si può dire. Va bene, io a questo punto vorrei sapere se possiamo andare nell'angolo, il nostro angoletto di DistroWatch. Il bagno. Ah, pensavo il bagno. Dovremmo chiedere all'addetto se è pronto. Siamo prontissimi. Allora vi lasciamo questi fantastici minuti magici dell'angolo di DistroWatch. Dov'è la base? C'è. C'è la base? C'è. Ma io non la sento, sono molto triste. Buonasera, benvenuti all'angolo di DistroWatch. Ok, dopo questa voce introduttiva, passiamo alle novità della settimana, quello che è. Iniziamo con... È uscita quella che è la development release, la RC di Linux Mint, la versione 13. Come al solito, pacchetti aggiornati, tante care cose. La novità vera e propria... è che ci saranno due nuovi flavor di Linux Mint che sono esattamente, non sarà più con GNOME 3 e altre cose, ma monterà Mate e Cinnamon, i due ambienti grafici, cioè l'ambiente grafico quello portato da GNOME 2, giusto? Correggetemi, sì, quello, esattamente lui. Poi è uscita una nuova distribuzione che si chiama Hybrid Linux con due Y. E il vantaggio di questa distribuzione è che praticamente monta... Faccio amore. No, non è... No, no quella, no, no, via. Ah, scusa, no. Sbagliato programma. Sì. Oggi è giovedì. Oggi è giovedì? Ma era dopo le 11:30. Ah, scusa. Dannazione. Comunque, niente, stavamo dicendo che Hybrid Linux, questa nuova distribuzione, ha una feature molto interessante che permette... di... Perché ridono tutti voi? Io non rido. Lo fa. Perché è un... Vabbè, adesso lo fai tango. Lo fai tango di strumento. No, prendi e fai la Io non capisco perché ogni settimana c'è sempre qualche casino. Va bene, ok. Io ho sbagliato. Comunque, questa distribuzione permette di switchare l'ambiente grafico. Di suicidare senza fare il logout. Ma dimmi una cosa. Una cosa mi interessava. Io ho sbagliato ora legale. Gentoo, dove... Definita. La gente va avanti ad essere aggiornato, non lo so, è uscita una release, la 2012 qualcosa, Donate.com, 20 però, years edition, quella lì. È uscita la release. È uscita. Con chi? Pensavo fosse un brufolo. Va bene, e su queste note epiche direi di chiudere l'angolo. Chiudiamo l'angolo di Stroboli. Chiudiamo l'angolo. Perché è un angolo piccolo. È un piccolo angolo. E siamo tornati al solito cazzeggio di Opencast, la puntata numero 24. Questo. 24, però non abbiamo parlato di Rosa Linux. Scusa? Che Rosa Linux. Deriva da Mandriva. Ah, Rosa Linux. Abbiamo parlato l'altra volta. Abbiamo parlato l'altra. Ma allora, vabbè, allora facciamo così. Io per venirti incontro parlo di Mandriva. Vai. Perché gli utenti hanno deciso che nel 2012 uscirà una nuova versione. Perché sono stanchi. Si chiama Mageia. Complimenti. Ma hanno deciso. Sì, ma anche Mageia è uscito e sta per uscire la 2, no, tra l'altro. No, stanno loro sul forum di Mandriva stanno ancora decidendo il nome e tu. E? E tutto. E tu? Però... E tu? E noi? E lei? Distribuzione stupenda. Io, tu e la rosa. Mandriva, Lo so, vabbè, era carina a suo tempo, dai, era user friendly. No. C'era il maghe, ma piuttosto open source che fine ha fatto, non ne parla più nessuno. È un camaleonte, sei mimetizzata. Ah, però. Mi è dato una finestra, principalmente. Ah, sì. Ma sto camaleonte non si può mangiare qualche mela, qualcosa, vabbè. Qualche frutto un po' così della passione, Ron Neio Pampero. Ma domanda: questa puntata quando la mettiamo? Prima del 2 giugno? Speriamo. Chi lo sa? Come speriamo? Facciamo Dai. Questo annuncio. Cosa succede il 2 giugno? Facciamo questo annuncio e speriamo di lo so. Puntata. No, è festa nazionale. Ma oggi è il 31 maggio, ci siamo già usciti. Smettila, se ne accorgono. Sì. Allora, l'annuncio è questo. Siamo gli unici che registriamo postumi. Dopo la nostra morte. Servivano le auto allaccianti, non sono ancora uscite, maledizione, ma che anno è? Allora, il LIFO, il Laboratorio Informatico Free ed Open di Varese, organizza il 2 giugno una serata con dalle ore 18, per cui una serata, rientra nell'orario. Con pizzette, aperitivi. Con pizzette, aperitivi e soprattutto un talk di Lars Virzenius. Chi? Lars Virzenius. Vabbè, allora ci devi dire chi è. È un last man standing. Quasi, okay. Quasi. È uno dei primi hacker di Linux, fondamentalmente. È quello lì che ha visto Linux scrivere A e B. Sì, è lui. Era compagno di scuola di chi Linux. Vabbè. Infatti, no, questo qui è vero. Ma ho visto anche la luce. E niente, allora sarà a Varese a presentare Get Things Done for Hackers. Praticamente un organizzatore, gestore dell'attività. Una roba di quelle dove fai l'elenco di cosa devi fare e poi segni quando l'hai fatte. Calendario. Grosso modo, più o meno. E niente, per cui dalle ore 18 a Varese in Piazza De Salvo. L'ingresso è gratuito, se volete partecipare mandate un'email a info@lifolab.org, poi mettiamo i collegamenti sulla pagina del sito. E anche sul forum. Addirittura? Sul forum, non lo Io so. Io metterei vabbè. Un post-it anche sulla fettatrice. Lascia stare la fettatrice. La fettatrice è presto presente anche lei sul forum. Sì, uno dei tanti oggetti collegati a internet nel prossimo futuro. Va bene, e con questo direi che abbiamo raggiunto il nostro limite massimo bisettimanale di cazzate, perché non è solo serale, è proprio bisettimanale, secondo me. Non è facile. No, non è facile. Vi lascerei io, poi voi fate un po' quel cazzo che volete. No, io pensavo di stare ancora un po' va bene, qua. Allora tu stai qua. No, vi lascio anch'io però. Ok, vi lascerei con un pezzo di Granny Smith. Le mele, insomma, le Granny Smith. Le mele, Granny Smith. Ah, fanno anche collaborazione con i Fuji. Pensavo fossero le nonne. Le nonne. Le nonne di Smith. Le nonne Granny di Smith. Smith. Sì, più o meno. Comunque c'è una mia amica che suona nelle Pere Williams ed è veramente una gran figa. E va bene. E su questo direi che possiamo chiudere che questa puntata di Open. Ne stai a casa. Sì, esatto. Non ho capito sta cosa. È così. Complimenti per la trasmissione. Grazie. She lost her car. of rain, the meal of our